Effetto Mondo. Our goal has always been to help unify Americans to defeat Donald Trump and to win the era for our values. Eccoci. E siamo entrati nel vivo di Effetto Mondo. Ciao Giulia. Ciao, ciao. È la voce di Pete Buttigieg. Sappiamo, il candidato più giovane che ci sia mai stato per le primarie dei democratici e anche dei repubblicani, il primo apertamente e dichiaratamente gay. E però da ieri non è più candidato alle primarie. E noi che ci eravamo affannati tanto per interpretare la giusta pronuncia del nome, adesso non abbiamo più questo problema. E avevamo anche guardato le statistiche, lui era andato molto bene nel caucus dell'Iowa, avevamo detto questo è un buon segnale. Secondo, ha fatto una breve dichiarazione, poi ha rilasciato molte interviste, ha detto il nostro scopo è comunque quello di unire il Partito Democratico e di sconfiggere Donald Trump nel novembre di quest'anno, e quindi a questo punto io mi ritiro perché mi rendo conto che non ho la forza di vincere le primarie e metto tutta la mia energia, le mie capacità al servizio di chiunque vincerà le primarie. Quindi un messaggio comunque di unificazione al partito che sappiamo è abbastanza disgregato. Naturalmente a questo sono dedicati tutti i titoli dei giornali americani, che però parlano molto anche di coronavirus. Interessante un articolo del New York Times, che sappiamo non è particolarmente amico di Trump. Hanno comunque tutti apprezzato la conferenza stampa che è stata all'1:40 circa di Washington, del 13:40, quindi qui da noi erano le 19:40 di sabato. La cosa che lascia un po' perplessi è che a capo di questa task force ci sia Mike Pence. Essendo Mike Pence una nomina politica, è il vicepresidente, c'è qualche dubbio sul fatto che possa attuare delle misure che possono anche essere molto poco popolari. Siccome è il vicepresidente, dicono alcuni commentatori, potrebbe aver paura di fare delle cose troppo drastiche, che sono appunto misure impopolari. Giulia, non so i giornali americani se parlano di coronavirus, però c'è anche una questione che riguarda la sanità, no? Negli Stati Uniti, perché lì il tampone, se lo fai, te lo paghi. Sì, tra l'altro una commentatrice del Washington Post, sappiamo quotidiano di Jeff Bezos, anche questo non è particolarmente favorevole a Donald Trump, ma qui si tratta di dati, di numeri, dice questa crisi potrebbe riportare sul tema delle campagne delle primarie, ma delle presidenziali, il tema del sistema sanitario universale, cioè di una sanità pubblica universale. Perché? Vi do due dati. Allora, innanzitutto, quanto costa il tampone? È vero che Donald Trump e sicuramente otterrà dal Congresso 2,5 miliardi di stanziamenti per fronteggiare questa crisi. Metà di questi probabilmente verranno usati per produrre o mettere a disposizione i famosi tamponi. Ma per fare il tampone negli Stati Uniti devi andare in un ospedale, anche qui. E lì scatta subito il conto. Il tema, quindi, diciamo cifre approssimative, farlo comunque, il tampone costa circa $4,000. In questo momento le assicurazioni sono disposte, quelle migliori, a rimborsare $1,400. Anche se il tampone è gratuito, comunque devi pagare il fatto di essere andato in ospedale, e sono minimo $1,000-$1,500 per l'infermiere, per il tempo che hai occupato nel pronto soccorso. Se non hai i soldi, non lo fai. Io quando sento queste cose ho i brividi lungo la schiena. Non sono mai stato negli Stati Uniti, quindi non ho un'esperienza diretta, però per noi è veramente difficile. Noi non ci sentiamo bene, o un familiare, un bambino, un genitore, chiamiamo il nostro cosiddetto medico di base. Se a volte negli non Stati ci rendiamo, Uniti non esiste, ci rendiamo conto di questo, che forse è non voglio chiamarlo un privilegio, ma insomma è un diritto, chiamatelo come volete, ma è un dato di fatto che non è così negli Stati Uniti. Pensate che secondo un sondaggio di Gallup, che è l'istituto di sondaggi più autorevole, riportato oggi dal Washington Post, nel 2019 il 26% degli americani adulti, un quarto, ha rimandato, anche se stava male, una visita dal medico perché sapeva di non avere i soldi per pagarlo, e il 19% degli americani adulti ha rimandato l'acquisto di medicine, anche salvavita, per la stessa ragione. Dati sulle assicurazioni: 27,9 milioni di americani non ce l'hanno, quindi in teoria qualsiasi cosa comprano, o medicina o una visita, devono pagarla. Mm-hmm. 44 milioni sono underinsured, cioè hanno delle assicurazioni che coprono il test per la vitamina D, la radiografia, forse neanche sempre. Quindi capite che sono cifre impressionanti. se uno dovrà curarsi per il coronavirus. Allora, sorvolo sul voto in Israele, vedremo, perché questa è la terza volta che votano in un anno, e se vuoi trovare qualcosa sui giornali, altrimenti vedo che c'è Johnson in scaletta oggi. Sì, Johnson che a sua volta ieri ha fatto visita, ha detto quali sono... Sentiamo un breve audio, perché il suo consiglio è lavatevi le mani. The key message that I think everybody needs to hear, way we can, the best way we can help the NHS and help ourselves and stop the spread of the illness is to wash our hands. Ecco, e poi dice anch'io. Ci vogliono 20 secondi, mi dicono che è come dire buon compleanno due volte, quindi capite che è una misura che tutti possiamo prendere. Questo poi naturalmente gli chiedono come, se è contento, perché due giorni prima è stato annunciato che si fidanza con la sua compagna, quella che con la quale ogni tanto come si litiga fidanza furiosamente. Con la compagna, se è compagna, no, cioè... ma è un engagement ufficiale, okay. Che vuol dire che quindi fisseranno la data delle nozze, nel certo. Frattempo lei aspetta un bambino, è il sesto per Boris Johnson. Quindi insomma, vabbè, no, devo dire che i giornali scandalistici dicono che chissà quanti altri ce n'è in giro, perché pare che sia un allegrone, ecco. Senti, abbiamo pochi secondi, 30 secondi, cosa vogliamo chiudere? Molta Turchia, abbiamo sentito prima le ultime, fa molto effetto soprattutto in Germania, come potete immaginare, sono le foto su tutti i quotidiani, ma anche il Guardian, tra l'altro adesso ho visto che ci sono delle foto in rete di un drone che fa vedere questa enorme quantità di persone che cerca dalla Turchia di entrare in Grecia, sappiamo con tutti i problemi del caso, questa è una bomba umanitaria, possiamo dire, perché nessuno ha idea di come affrontare questa emergenza in un quadro super emergenziale legato appunto al microscopico virus.